Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. È stato da poco pubblicato dall'ENEA, che è un po' la nostra Agenzia Nazionale per l'Energia e l'Ambiente, e ha un nome in realtà complicatissimo, il rapporto 2013 sull'efficienza energetica, che scatta ogni anno una fotografia appunto molto ampia, molto dettagliata di quanto è accaduto nel settore nel corso dell'anno precedente. Ne parliamo con Alessandro Federici, che è ricercatore dell'ENEA in forza all'unità tecnica efficienza energetica, che ha contribuito a stilare questo rapporto. Buonasera Federici. Buonasera. Senta, intanto diciamo una cosa: in un certo senso siamo tornati nel 1997, possiamo forse cominciare così, ecco, un primo inquadramento di quelli che sono i dati macro. Beh sì, è vero, sì, siamo più o meno agli stessi livelli del 97, certo, però insomma, per quanto riguarda che cosa? Il consumo di energia, no? Cioè, domanda complessiva e consumi finali vanno di pari passo, diciamo. Per domanda intendo il consumo lordo, cioè comprensivo del consumo del settore energetico per la trasformazione delle materie prime in energia elettrica. C'è poi anche una piccola parte di cosiddetti usi non energetici, cioè petrolio, gas naturale, che, esatto, concimi, fertilizzanti, sì, queste cose produzione qua. Oggetti in plastica, tanto per intenderci. Gli stessi livelli appunto sono quelli del 97. Però la torta è cambiata, è vero? Eh sì, diciamo che è cambiato sia a livello di mix energetico che di settori. Se vediamo il 97 e il 2000, in cui più o meno industrie, trasporti, civili stavano allo stesso livello. Un terzo circa. Sì. Al 2012, l'ultimo anno disponibile, se andiamo a vedere il bilancio energetico nazionale del 2012, l'industria è scesa a poco meno di un quarto, 30 MTEP, i trasporti hanno mantenuto quella percentuale, un 30%, il civile è salito oltre un terzo, 36%. Ecco, questo chiaro. Cosa riflette però? Solo perché l'industria, sappiamo benissimo che una parte insomma della riduzione dei consumi energetici è legata alla crisi. Ecco, quindi questo ridimensionamento della fetta dell'industria è tutto da ricondurre lì, o c'è anche qualche altra novità, forse positiva? Beh sì, direi di sì, insomma, è chiaro, a livello settoriale, come detto, le dinamiche sono un po' differenti. Nell'industria c'è stata una crescita dei consumi dal 97 al 2005, da, se ricordo bene, 37 a 41 MTEP, per arrivare però al 2012 a 30 MTEP. Quindi dal 2005, che non a caso è l'anno di introduzione del meccanismo di certificati bianchi, i consumi del settore industriale si sono ridotti di oltre un quarto, in particolare nei comparti tradizionalmente quelli, diciamo, più energivori: chimico, petrolchimico, meccanico, alimentare. E tra l'altro domani un po' ne parliamo di queste cose, ma insomma il messaggio è che l'industria si è messa in moto e ha cominciato a fare efficienza energetica sul serio. C'è stato un boom di certificati bianchi, che ricordiamo sono una, diciamo, delle forme di incentivazione all'efficienza energetica, particolarmente rivolte proprio all'industria. Esatto, c'è sicuramente indubbiamente una componente di crisi che ha in qualche modo acuito la riduzione dei consumi negli ultimi anni, ma c'è molto dell'attuazione di politiche per l'efficienza energetica. Che si vedono anche nel settore residenziale. Beh sì, insomma, se andiamo a calcolare di quei 3 miliardi di investimenti che sono relativi agli interventi per l'efficienza energetica, che hanno soffrito di detrazioni del 55%, a questi sono associati circa 45.000 occupati diretti e 70.000 complessivi, a fronte di una pesante riduzione dell'occupazione nel settore, circa 200.000 occupati solo quest'anno. Insomma, è un'indicazione molto precisa di che cosa si può fare in questo paese, per esempio, per creare un po' di lavoro, no? Beh sì, ormai gli investimenti sono riconducibili per circa 2/3 ad interventi di recupero del patrimonio esistente, e questo è un segno evidente della trasformazione ormai consolidata verso la riqualificazione. E chiaramente all'interno di questo processo ha giocato un ruolo determinante la riproposizione, il rafforzamento delle misure di incentivazione. In prospettiva futura, secondo una valutazione effettuata all'interno del rapporto dalla FILLEA, la Federazione Italiana Lavoratori Legni Affini, il potenziale della riqualificazione energetica è notevole. e ipotizzando il ricorso a fondi comunitari, l'estensione delle detrazioni, fondamentale, la stima al 2020 è di circa 250.000 occupati diretti e oltre 350.000 nel complesso. Ma a patto, ripetiamolo, di mantenere, di stabilizzare questi benedetti incentivi che ogni anno vengono riconfermati, ma non si capisce perché bisogna farlo a dicembre per gennaio. Ma grazie Federici, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento domani perché cerchiamo di capire poi dentro nell'industria che cosa sta succedendo. Senz'altro, grazie, buona serata. A domani.